Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, a tutti buona giornata, un altro martedì del lavoro. A proposito, vi anticipo già che la settimana prossima, per naturalmente dare spazio anche al risultato elettorale, noi cercheremo di monitorare anche quello che sarà l'effetto sui mercati finanziari della nuova compagine politica che emergerà appunto dalle elezioni del prossimo weekend. Abbiamo deciso di anticipare a lunedì la prossima puntata sulla riforma del mercato del lavoro, perché martedì appunto prossimo ci dedicheremo all'impatto sulla borsa del risultato elettorale, quindi affronteremo appunto le tematiche di natura finanziaria e le elezioni, per cui ve lo anticipo già da oggi, poi naturalmente cercheremo di ricordarvelo anche nel corso della settimana. Questo lo dico soprattutto a chi è appassionato di questo tema e ci sta seguendo soprattutto con costanza durante gli approfondimenti dedicati appunto a questo argomento. Di quale tema parliamo oggi? Allora, la riforma del lavoro di Elsa Fornero, la legge del giugno dello scorso anno, la 92, ha ristretto notevolmente i confini che delimitano il lavoro dipendente e ha preso delle posizioni più severe in merito all'applicazione delle partite IVA in regime di monocommittenza, l'utilizzo inappropriato appunto delle collaborazioni a progetto. Le nuove condizioni decise dalla riforma impongono l'adozione di contratti più stabili e anche più onerosi, mettendo alcune aziende nell'impossibilità di sostenere i costi. Per questo sempre più spesso vengono adottati i cosiddetti contratti di prossimità che, sulla base di precisi accordi sindacali e territoriali, permettono di derogare alle norme di legge, a quelle della legge Fornero. I contratti di prossimità, per la verità, sono stati introdotti in precedenza dal ministro Sacconi. Salva Danaio oggi cerca di spiegare il funzionamento di questi contratti con l'obiettivo di capire di fronte a quali condizioni, a quale scelte possono trovarsi i lavoratori, naturalmente andando anche al concreto della questione che si è posta con la riforma Fornero, che ha riguardato molti campi. Infatti questa mattina noi per esempio abbiamo voluto interfacciarci anche con il mondo dei call center, che è un settore che impiega centinaia di lavoratori, spesso con contratti appunto a progetto, che ha dovuto studiare le modalità più idonee per ottemperare alla nuova normativa, cercando anche di rendere meno onerosa possibile per le aziende la stabilizzazione dei contratti, che naturalmente presupponeva proprio la cosiddetta presunzione di subordinazione. Allora, una questione che sembra in apparenza molto complessa, ma invece nella quale probabilmente molti lavoratori si saranno trovati appunto ad affrontare. Con noi questa mattina ormai i nostri due consulenti di riferimento per questo lavoro che stiamo facendo di settimana in settimana. Saluto e ringrazio Alessandro Rotaporta, consulente del lavoro, esperto del Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie dell'ospitalità. E buongiorno anche a Giampiero Falasca, l'avvocato Giampiero Falasca, giuslavorista, esperto del Sole 24 Ore, che invece questa mattina per il quotidiano firma un altro approfondimento sul tema dell'apprendistato, del quale abbiamo parlato anche tante volte. Magari chissà se varrà la pena ritornarci prossimamente. Avvocato, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E poi, come preannunciato, il mondo dei call center, ringrazio e saluto per essere con noi, lo stiamo contattando proprio in questo momento, Alberto Zunino, direttore generale di Asso Contact, che è l'associazione nazionale di categoria dei contact center. Dottor Zunino, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. E grazie. Buongiorno a tutti. Allora, naturalmente per i nostri ascoltatori il numero verde è sempre lo stesso, se volete intervenire in diretta con delle domande, con delle considerazioni sul tema di questa mattina: 800 24 00 24. Scriveteci anche al 349 238 6666, scriveteci al nostro indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it, scriveteci su Facebook sul nostro profilo salvadanaio-radio24, interagite con noi anche attraverso Twitter @salvadanaio24. La domanda che vi facciamo è: lavorate con un contratto da liberi professionisti, ma siete dipendenti di fatto? Potrebbe scattare nel vostro caso la presunzione di subordinazione? Come si comporterebbe? Cosa comporterebbe questo per la vostra azienda e come stanno disciplinando la questione le imprese con queste situazioni ancora aperte? Un tema molto interessante, molto importante, anche molto delicato, naturalmente. E appunto, come dicevamo, sicuramente anche oneroso per le imprese. E allora, prima però di entrare nel merito di tutto questo, un'occhiata anche alla giornata di borsa. Giornata positiva, più 0,7% per Milano sul FTSE MIB, in rialzo di un punto Parigi, Francoforte più 0,8, Londra più 0,39 e il mercato stamattina aveva aperto un po' più fiacco, poi è scattato in concomitanza con la pubblicazione dell'indice ZEV, che è un indice di fiducia tedesco che misura appunto proprio la fiducia dell'attività economica, la fiducia degli imprenditori, e c'è stato un balzo notevole di questa rilevazione a febbraio e il mercato pure è scattato di conseguenza. L'euro sul dollaro a 1,3373, c'è stata un'asta di titoli di Stato spagnoli, titoli a 3 e 9 mesi che la Spagna ha collocato senza problemi per un valore di 4 miliardi di euro con tassi stabili, quindi né in rialzo né in discesa, comunque in una condizione di stabilità. Sotto pressione oggi il mercato dell'auto, il settore dell'auto quotato, perché l'ACEA, l'Associazione dei Costruttori Europea, l'Associazione dei Costruttori Europei ha divulgato appunto la rilevazione relativa alle immatricolazioni di nuove auto in gennaio, meno 8,7%, quindi l'anno riparte male, con cali molto forti soprattutto sul mercato francese, meno 15%, e in Italia meno 17,6%, e Fiat che segna una flessione inferiore al mercato ma comunque molto marcata, meno 12,3%. Infatti Fiat ne subisce le conseguenze a Piazza Affari perché il titolo è il peggiore di Milano e perde l'1,42%. I migliori, Salvatore Ferragamo, il lusso non si ferma, più 2,88%, di nuovo per questo gruppo, sempre sui massimi storici, che continua ad aggiornare, porta con sé anche Toz, più 2,69%, anche se negli ultimi giorni di Diego Della Valle abbiamo sentito parlare per altre questioni legate all'offerta presentata sabato prossimo per rilevare la Settima. La Telecom ha giudicato arrivata tardi questa offerta e ha detto che preferisce trattare in esclusiva con Cairo Communication. Tra gli altri rialzi segnaliamo la Popolare dell'Emilia Romagna più 2, Prismian più 2, Banco Popolare più 1,84%, i titoli più bersagliati degli ultimi giorni, Monte dei Paschi oggi più 0,93%, per quello che riguarda Finmeccanica più 0,35%. Per la borsa è tutto, oggi riprendono le contrattazioni a Wall Street, ma noi andiamo al tema di oggi e parliamo appunto della riforma Fornero e di tutta quella parentesi aperto su tutti quei contratti da stabilizzare. Sentiamo un po' di che cosa si tratta. Qualcuno li ha definiti contratti cinesi. Sono i cosiddetti contratti di prossimità, che potrebbero essere destinati ad una diffusione capillare come conseguenza dell'introduzione delle ultime normative sul mercato del lavoro. La riforma Fornero ha infatti introdotto limiti più severi per l'impiego di partite IVA in monocommittenza e per l'utilizzo di contratti di collaborazione a progetto. In presenza di alcuni presupposti legati alla durata della collaborazione, alle percentuali di fatturazione, ma anche all'esistenza di una postazione fissa di lavoro per la persona presso la sede dell'azienda, scatta quella che è stata definita presunzione di subordinazione. In sostanza, l'azienda risulta sottoscrivere un contratto da libero professionista o collaboratore, quando di fatto impiega la risorsa umana come se fosse un dipendente. Per mettersi in regola, è quindi tenuta a cambiare le forme contrattuali, preferendo contratti più stabili e quindi più onerosi. Questo, pur garantendo finalmente il rispetto dei diritti dei lavoratori, rende di fatto impossibile per tante imprese portare avanti l'attività. Ragione per cui, in molti settori, è stato riscoperto il contratto di prossimità, introdotto nel 2011, quando il welfare era ancora affidato al ministro Sacconi. Sulla base di precisi accordi sindacali conclusi a livello aziendale o territoriale, è possibile adattare le condizioni di lavoro derogando alle norme di legge o di contratto collettivo nazionale. È possibile, ad esempio, che vengano adottati contratti stabili, ma con livelli di ingresso molto bassi, a termine e senza causale, o con stipendi congelati. Condizioni meno onerose, insomma, per l'azienda, ma che pongono i lavoratori e chi li rappresenta di fronte a una scelta difficile: accettare, in cambio di una forma di stabilizzazione, di fare un passo indietro rispetto ad alcuni diritti. E il problema è quanti passi indietro devono fare appunto i lavoratori per accettare di essere regolarizzati e stabilizzati, ma ci rendiamo conto anche dei problemi che stanno dall'altra parte, perché ci sono effettivamente molte aziende che utilizzano delle prestazioni d'opera secondo questi contratti, collaborazioni a progetto, appunto le partite IVA, ed effettivamente poi stabilizzare, regolarizzare, contrattualizzare in via semidefinitiva appunto centinaia di lavoratori non è facile. Quindi sicuramente lo spirito della legge è importante da rispettare, poi come al solito la realtà è tutt'altra cosa, Alessandro Rotaporta, no? Mi pare che ho sintetizzato un po', forse in maniera molto banale, la situazione, ma un po' il problema nel quale molte aziende si sono ritrovate dal giugno scorso è questo. Sì, perché si tratta di sostanzialmente andare a armonizzare delle esigenze che poi sono esigenze di mercato, quindi di contenimento di costi, proprio per reggere la concorrenza che c'è nei diversi settori, e dall'altra parte andare a rispettare questi parametri che la legge 92, come è stato descritto molto bene nella scheda, è andata ad introdurre. Quindi tra l'altro pensiamo che, mentre sul discorso delle partite IVA, a parte che qui la verifica è stata, quindi il controllo è stato esteso dal parametro annuale che inizialmente la norma aveva previsto a un lasso temporale di 2 anni, quindi c'è un po' più, c'è una verifica su un arco temporale un po' più ampia, e la legge 92, la riforma Fornero, aveva consentito ai committenti un anno di tempo per diciamo regolarizzare, adattare alle nuove regole i contratti che erano in essere all'entrata in vigore della riforma, mentre se parliamo ad esempio di contratto a progetto, dall'entrata in vigore non è stato concesso nessun periodo transitorio. Quindi anche qui occorre distinguere tra le varie situazioni. Sul discorso delle partite IVA sono stati introdotti degli indici al verificarsi dei quali scatta appunto questo regime di presunzione, che inverte di fatto l'onere della prova e quindi sposta l'onere di dimostrare che il contratto invece è genuino in capo al committente. Quindi è un regime che impegna sicuramente le aziende a una revisione di questi contratti. Certo. Quanto sono penalizzanti i contratti appunto delle aziende che comunque riescono, utilizzando le deroghe, comunque anche la nuova normativa, appunto a stabilizzare i lavoratori? Ma se parliamo di... Per chi per esempio utilizza la modalità del contratto di prossimità, che è precedente, una disciplina precedente appunto alla riforma Fornero. Esatto, il contratto di prossimità trova la sua fonte nell'articolo 8 del decreto legge 138 del 2011, che è tuttora in vigore, e non bisogna dimenticare che comunque il contratto di prossimità che va in deroga a disposizioni legislative o di contratti nazionali deve avere uno spirito nobile. Infatti la premessa di questa norma che regola i contratti di prossimità è che questi contratti, queste intese, siano comunque finalizzate a degli obiettivi nobili, tipo la maggiore occupazione, la qualità dei contratti di lavoro, l'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori all'impresa, eccetera, eccetera. L'emersione, quindi, anche mi pare. L'emersione, la gestione delle crisi aziendali. Quindi deve essere sotteso uno spirito nobile. Poi va anche detto, per onestà, che comunque parliamo di una tipologia di contrattazione di recente introduzione, che non ha ancora avuto un vaglio al banco di prova della giurisprudenza, quindi non diciamo una formula che si sta testando, ma che non ha ancora avuto come banco di prova il test, diciamo. No, ma infatti è incredibile che il test ci sia adesso, che c'è una riforma radicale, sì, in vigore, e mentre prima appunto questa possibilità non veniva comunque così praticata. Ma questa possibilità è stata vista subito male dai sindacati, che ad esempio in tema di recessi sono intervenuti con un accordo da subito, escludendo la possibilità di andare a fare delle intese di questo tipo con aventi come contenuto i licenziamenti. Quindi è stata subito vista male, e forse anche poi spiegata male, perché parliamo comunque di situazioni dove magari la deroga è veramente finalizzata alla salvaguardia dei livelli occupazionali, o magari a avvio di attività e quindi magari deroghe sui contratti a termine, quindi può avere una sua utilità, ovviamente va gestita nei termini corretti, e effettivamente l'effetto dirompente della riforma ha fatto sì che percorrere ai ripari in determinate situazioni. Poi ci sono stati anche dei casi eclatanti che sono stati descritti anche sui giornali, sulle 24 ore, di aziende che a livello nazionale avevano dei numeri talmente elevati che hanno fatto ricorso a questi contratti, e anche la parte sindacale ha evidentemente accettato questi compromessi, perché sennò lì veramente l'effetto sarebbe stato devastante sull'occupazione. Se non ricordo male, uno di questi casi è quello della Golden Lady. Comunque, avvocato Falasca, volevo tornare da lei perché c'è un settore che lei ha seguito molto da vicino, che è quello del marketing operativo. Poi tradurremo in termini semplici per i nostri ascoltatori quali sono i lavoratori impiegati in questo ambito, che ha firmato proprio di recente, lei l'ho seguito direttamente, un protocollo per il lavoro flessibile utilizzando le possibilità offerte dai contratti di prossimità, giusto? Esatto, sì, io l'ho commentato proprio sul Sole. Quello è probabilmente il caso più eclatante di accordo di prossimità e forse un modello che ci dà l'idea di quello che può fare questo contratto e di cosa accadrà nei prossimi mesi, perché se posso fare un passo indietro, c'è un enorme, è piaciuta anche a me molto la scheda, perché testimonia bene il fatto che c'è un enorme fermento in questo periodo, cioè il problema attuale di molti settori che lavoravano un pochino in una zona grigia, non voglio dire irregolare, ma in cui avevano il dubbio sulla legittimità delle tipologie contrattuali, stanno cercando un po' come mettersi in regola e diciamo planare sul lavoro subordinato ordinario probabilmente metterebbe fuori mercato molti di questi settori, e il contratto di prossimità è una passerella tra il prima e il dopo. Tra l'altro non vorrei anche ricordare solamente che c'è anche una serie di deroghe che sono offerte dal decreto sviluppo, che è intercorso, che è arrivato dopo la riforma Fornero, anche lì poi ci sono delle aperture ma delle quali parleremo dopo. Esatto, sì, Colsante. Però andiamo all'esempio del marketing cooperativo. Lì avevano un settore dove ci sono quei di solito ragazzi giovani che nei supermercati ci propongono di assaggiare il caffè, il formaggio o quant'altro, oppure che sistemano in una certa maniera, allestiscono i banchi di alcune case produttrici. E questi erano tutti utilizzati con contratti occasionali o a progetto, che era una tipologia sicuramente molto a rischio, molto incerta. Allora, cosa è stato fatto? È stato fatto un contratto di prossimità, che tra l'altro ha una caratteristica che è sostanzialmente su scala nazionale, cioè l'hanno fatto per 10 regioni uguale, in cui si è detto che non si usano più le collaborazioni, si usa solo il lavoro subordinato, ma questo viene cucito addosso al settore, quindi grande spazio al lavoro intermittente, contratto a termine senza causali, livelli inquadramento di partenza al settimo livello, che è sicuramente molto basso, possibile promiscuità delle mansioni, insomma hanno costruito delle regole adatte a quello strumento. Io voglio solo dire una cosa, perché sto seguendo molti di questi contratti in via di definizione. Non sempre, sicuramente il caso tipico è quello dell'abbassamento dello standard, no? Lo stiamo dicendo, cioè per non andare fuori mercato ma andare verso il lavoro subordinato, ma guardate che il contratto di prossimità può avere anche una finalità, come posso dire, di cucire addosso le regole rispetto a certe attività e magari anche a vantaggio dei lavoratori. Ci sono dei settori in cui oggi non passano al lavoro subordinato perché le imprese hanno paura che i lavoratori, passatemi il termine, si siedano, cioè non vogliono dare molta parte fissa, vogliono dare molto variabile, ma questo variabile è altissimo, quindi dove la parte commerciale è molto ampia. Allora lì andare a costruire delle regole in cui la parte fissa e basta, ma il variabile è molto più alto di quello che si ha nel lavoro standard, ad esempio, è un'applicazione sana e positiva di questi contratti. Poi ovviamente il punto di partenza, l'ha detto anche prima Rosa Porta e anche una scheda, è che questi di solito, proprio perché si tratta di accordi in deroga, servono ad abbassare lo standard. Certo, però insomma il tema è anche un po' sempre quello, l'ingresso nel mondo del lavoro, se avviene in una condizione di stabilità, anche se siamo ad un livello più basso. Io capisco anche che ormai passi il nome della contrattualistica cinese, abbiamo voluto giocare anche nella nostra scheda su questo, però è anche vero che oggi per entrare nel mercato del lavoro, anche se sei stracompetente, laureato, e lei lo sa, avvocato Falasca, vai in uno studio legale, non è che poi le condizioni di ingresso siano migliori rispetto a chi fa il promoter in un centro commerciale, voglio dire, si parte sempre da livelli molto, molto bassi di remunerazione, di riconoscimento dei diritti, insomma si lavora tante ore con come gli stage anche retribuiti in maniera comunque insomma il mondo è questo, non è che ci deve scandalizzare anche l'applicazione del contratto di prossimità, voglio dire, se ci si stabilizza sin da subito. Sì, non le piace. Posso dire, a parte una battuta, che nel mio studio legale è notorio che no, paghiamo i giovani più di un quadro aziendale. Questo, però in generale è vero, assolutamente c'è, cioè, grandissimo sfruttamento, proprio assolutamente. Io volevo aggiungere questo fatto, però oggi c'è il problema, esiste, cioè il fatto che il lavoro subordinato sia una gabbia a volte troppo rigida è un problema che in effetti c'è, prossimità o non prossimità. E la legge Fornero cosa fa? In realtà poi sono tutte regole che volendo uno potrebbe anche aggirare, però quell'effetto complicatezza, quell'effetto soffocante che già fa il diritto del lavoro italiano cresce con la legge Fornero ancora di più. E quindi fa crescere la domanda di soluzioni un po' più adatte a misura dell'impresa. Ma no, vabbè, dai, adesso non insistiamo su questa questione dei contratti cinesi. Marco Lombardo ormai si è scatenato. Però effettivamente quando sentiamo questa musica qualche volta ci vengono un po' in mente anche queste scene di certi documentari che sicuramente ognuno di noi ha visto, di in che condizioni si lavori all'interno appunto di laboratori di sottoscala, appunto anche di famiglie di cinesi che stanno in Italia. Ma insomma vorrei lasciare questa immagine e pensare che nel migliore dei mondi, naturalmente, qua in Italia succeda dell'altro. Sicuramente ci sono molte persone che magari per entrare nel mercato del lavoro si accontentano di lavorare molto per due soldi, però effettivamente magari sicuramente non hanno la identica condizione cinese. Detto questo, ritorniamo al tema di questa mattina. Siamo al nostro martedì del lavoro, ritorniamo alla riforma del mercato del lavoro, alla legge 92 dello scorso anno del ministro Elsa Fornero. E oggi stiamo parlando di tutti quei nuovi paletti, di tutti quei nuovi limiti che la riforma Fornero ha introdotto per evitare che le aziende impieghino in maniera indiscriminata lavoratori a progetto, lavoratori a partita IVA, che però magari sono impiegati in via quasi esclusiva. Allora che cosa ha detto la riforma? Ha detto che se ci sono determinate condizioni per queste figure professionali impiegate con questa tipologia appunto contrattuale, in realtà scatta la presunzione di subordinazione, quindi l'azienda deve assumere. Detto questo, chiaramente voi potete immaginare che cosa si è scatenato tra tante società che operavano secondo questi criteri, per cui si è cercato di capire come far sì che questo obbligo potesse essere recepito in maniera morbida, e le aziende si sono avvalse per esempio di contratti che erano già possibile far valere prima, i contratti di prossimità già in vigore ai tempi del ministro Sacconi, e poi ci sono state anche delle deroghe che sono state introdotte dal decreto sviluppo. Adesso ne parleremo, prima però volevo anche sentire Alberto Zunino, direttore generale dell'Associazione Nazionale dei Contact Center, quindi i call center. Ancora un minuto di pazienza a lui, perché volevo anche sentire la domanda di Enrico da Napoli da porre poi ai nostri consulenti di questa mattina, l'avvocato Giampiero Falasca e il nostro consulente del lavoro Alessandro Rotaporta. Enrico, buongiorno. Enrico. Buongiorno. Eccoci qua. Sì, pronto, buongiorno. Ci dica. Senta, la mia domanda era questa, volevo sapere, è possibile, io ho avuto un contratto di 5 anni, un contratto a progetto, praticamente che sia a tempo indeterminato, e poi le volevo chiedere un'altra cosa, praticamente questi contratti a progetto non sono che una scusante per le aziende per assumere, perché si sa, i contributi valgono un terzo praticamente di quelli normali. Infatti è come il gioco delle tre carte, l'abbiamo inventato noi a Napoli. No, Enrico, infatti la riforma Fornero ha voluto in qualche maniera salvaguardare proprio queste situazioni. Le voglio solo chiedere, però, lei è ancora aperta questa posizione con questa azienda? Lei è ancora un lavoratore a progetto per questa azienda o lo è stato in passato per 5 anni? Sono stato licenziato praticamente anche avendo un contratto a progetto indeterminato, in due vie di praticamente sono stato licenziato e tant'è vero che adesso sono in causa. A giorni dovrò allora, fare una causa. Aspetti lì Enrico, che magari i nostri consulenti hanno bisogno di farle qualche domanda. A Rotaporta, allora, intanto 5 anni come CocoPro, se fosse ancora in come dire aperta questa posizione con l'azienda per la quale Enrico ha lavorato, adesso non gli ho neanche chiesto il settore, qualora ricorressero quei requisiti, quei presupposti che la legge Fornero appunto ha previsto, lui potrebbe teoricamente far valere la presunzione di subordinazione e chiedere di essere assunto, no? Un giudice del lavoro gli direbbe di sì. Ma bisogna fare un attimo di chiarezza, perché comunque sia anche prima della legge 92 un contratto a progetto, adesso poi magari l'ascoltatore potrà specificare meglio, ma se effettivamente bisogna capire se questi 5 anni sono stati gestiti con un unico contratto oppure sono stati gestiti con diversi contratti via via rinnovati, perché l'attenzione, la riforma Fornero sul contratto a progetto è andata a recepire degli orientamenti che erano orientamenti già adottati dal Ministero con le varie circolari o anche orientamenti giurisprudenziali, quindi è andata ad inserire nella norma, nel corpo della norma, delle regole che di fatto già esistevano. Qual è la differenza? La differenza è che oggi con la legge 92, se il contratto a progetto non ha effettivamente un progetto intrinseco con un risultato finale da raggiungere, quindi non può essere a tempo indeterminato perché deve avere, essendo legato appunto a un progetto, deve avere un inizio e una fine. Se non sussiste questo requisito, scatta un regime di presunzione che addirittura in questo caso è una presunzione assoluta, cioè il contratto è ricondotto nella sfera del lavoro subordinato. Dal punto di vista legislativo si dice ope legis in termini giuridici, quindi non c'è neanche il margine di discussione da parte del committente di dire no, il contratto è genuino. Poi c'è un regime invece di presunzione, chiamiamolo attenuato, perché consente la prova contraria da parte del committente, che scatta nel momento in cui il lavoro a progetto coinvolga delle mansioni che sono analoghe a quelle svolte dai dipendenti eventualmente presenti in azienda, salvo che si tratti di professionalità elevate. Quindi nel caso dell'ascoltatore sicuramente, almeno così sentendo quello che ci ha spiegato, può far scattare uno dei due regimi di presunzione, poi appunto bisognerebbe capire se è un contratto unico, se sono più contratti, però effettivamente ci sta, cioè, emerge probabilmente un abuso di questa forma contrattuale. Che situazione e che questione appunto molto molto complessa. Alberto Zunino, vengo a lei finalmente, se no penserà che l'ho invitata così solo per ascoltare noi questa mattina. Ancora buongiorno, allora ci racconti un po' intanto chi rappresenta questa associazione appunto dei contact center, perché quando io penso al call center mi viene solamente in mente la mia azienda di telecomunicazioni con la quale ho il contratto per il telefono fisso ed internet a casa, che mi tempesta di telefonate dalla mattina alla sera, come capita appunto a molte famiglie italiane, per propormi naturalmente nuovi servizi. Detto questo, però, in realtà in questo campo ci sono call center che operano per esempio nel mondo delle utilities. Ho scoperto questa mattina chiacchierando con lei che per esempio rappresentate anche quei call center che si occupano di prendere le prenotazioni di mediche, per esempio, no? Sì, centri unici di prenotazione. Come vi siete così un po' comportati dopo la riforma Fornero e le novità che ha introdotto sul tema appunto di questa mattina, perché gli operatori dei call center sono tipicamente lavoratori a progetto, molto spesso, almeno in certi campi soprattutto, addirittura a volte sono anche delle partite IVA, per cui immagino che molte aziende abbiano un po' tremato, no, di fronte a questa nuova disciplina. Dunque, innanzitutto chi rappresentiamo? Allora, noi rappresentiamo tutte le aziende che fanno attività di call center, di contact center per conto terzi, quindi non per la nostra propria azienda, ma per conto delle aziende terze, in uno spettro di attività estremamente ampio, quindi possiamo parlare di call center che lavorano per società di telecomunicazioni, non soltanto, come ha citato lei, per l'attività di vendita dei prodotti, ma anche in ricezione di chiamate per attività di servizio, cambi di piani tariffari, richieste di intervento o quant'altro, l'energia, le utilities come citava lei, ma anche l'area assicurativa, bancario, e poi c'è tutto il mondo pubblico, quindi il call center dell'INPS per esempio, dell'INAIL, i call center delle aziende della sanità. Non decine, appunto, ma migliaia e migliaia di lavoratori. Migliaia e migliaia di lavoratori. Ora, subito una piccola divisione per entrare nel merito. le attività che facciamo sono svolte in ricezione di chiamata, quindi quando noi rispondiamo alle richieste dei clienti, quindi il cosiddetto inbound, oppure in uscita, quando siamo noi a chiamare i clienti, il cosiddetto outbound. Ora, tutta la parte inbound è già regolamentata da tempo con contratti di assunzione a tempo indeterminato, nella grandissima parte, con qualche parte a tempo determinato per gestire le flessibilità, i picchi di flessibilità che sono necessari. Mentre invece per la parte outbound è stato ed è tuttora largamente in uso i contratti a progetto in linea di massima. E qua entriamo un pochino più nel merito della questione. Allora, l'intervento del decreto lavoro ci ha messo sicuramente in difficoltà, perché alcuni elementi inseriti nella normativa dal ministro hanno creato un'ulteriore limitazione all'utilizzo del contratto a progetto. Il che, per esempio, eliminando le fasi di lavoro, che era l'elemento attraverso cui noi facevamo riferimento per poter fare contratto a progetto, uno dei degli elementi. In realtà, pur essendo comprensibile e lodevole la ragione del ministro per ridurre lo spettro di utilizzo di contratti a progetto. La precarietà, certo. Certamente, però un problema di fondo è che in realtà buona parte delle attività, e in particolare quelle di vendita di cui abbiamo appena fatto cenno, sono effettivamente dei lavori autonomi e quindi è perché hanno anche una parte variabile appunto della remunerazione. Perché la remunerazione è in buona parte variabile, perché la professionalità del lavoratore, del venditore è una professionalità indiscutibile, quindi è anche difficile trovare delle figure professionali capaci di fare correttamente questo lavoro. Per l'autonomia anche nello svolgimento dell'attività, nel tempo da dedicare all'attività, insomma tutta una serie di ragioni che rendono effettivamente autonomo questo lavoro. Nella lettura però della definizione del ministro Fornero ci è parso di ravvedere la non possibilità di utilizzare il contratto a progetto e quindi situazione di grande difficoltà iniziale. E poi però, dire che il legislatore però ha notato la difficoltà e la situazione e ha fatto un intervento all'interno del decreto sviluppo. Ci possiamo fermare, Zunino? Ce la spiega adesso, perché ho nuovamente la pubblicità con i suggerimenti per chi è in viaggio. Oltre a capire che cosa ha stabilito il decreto sviluppo, poi ci interesserebbe capire anche i vari settori che ricadono appunto nel vostro campo, come si sono mossi, perché so per esempio che il recupero crediti ha perseguito una determinata strada nel settore delle telecomunicazioni, come ci si sta muovendo, così anche da capire come i lavoratori che magari adesso intendono mettersi in campo anche in questi settori, cosa devono aspettarsi anche dall'azienda che propone appunto un tipo di rapporto di lavoro. Avevamo due ascoltatori che sono caduti, speriamo di recuperarli perché avevano delle belle domande. Salve, sono Marco da Prato, qua di cinesi ne vediamo tanti. Alla mia ragazza laureanda in economia hanno proposto di lavorare come promoter nei centri commerciali per un famosissimo canale satellitare, non ve lo cito, tanto lo immaginate, a 10 euro al giorno, più provvigione al contratto. Chi firma qualcosa in un centro commerciale senza leggere bene, però magari conoscono molto bene il canale satellitare, Marco, e lì forse si va, non si deve vendere qualcosa di sconosciuto, forse qua c'è un po' più vita facile, ma bisognerebbe vedere anche che percentuale viene riconosciuta su questo contratto. E Marco conclude: altro che cinesi, i cinesi pagano di più. Vorrei sentire un attimo Paola da Verona, poi concludo con Zunino. Paola, buongiorno. Buongiorno, scusi se ho pressato un pochino, ma sto entrando in ufficio. Ha ragione Paola, tanto tra poco chiudiamo, quindi non la facevamo aspettare troppo. Ci dica. Grazie mille. Niente, dicevo, io sono un'imprenditrice di Verona e sono responsabile di una scuola di lingue. E ci confrontiamo spesso fra direttori di scuole perché abbiamo praticamente tutti lo stesso problema, vale a dire molte persone che lavorano all'interno delle nostre strutture in contemporanea negli stessi orari. Quindi ci ritroviamo ad esempio ad avere 10 persone che lavorano da mezzogiorno alle 2 e altre 10 che lavorano, o 20, quali che siano, dalle 18 alle 22, perché questi sono gli orari di punta in cui vengono richiesti i corsi di lingua. Certo. Quindi mattina, mezzogiorno e sera sostanzialmente. È impossibile per noi avere una persona che rimanga e che abbia 8 ore consecutive di lavoro. Di conseguenza applichiamo diversi tipi di soluzione. Io personalmente all'interno ho 3 dipendenti e il resto ho CocoPro e molti occasionali. Uh-huh. Ultimamente i miei consulenti mi stanno mettendo molto molto sotto pressione, devo dire, per questo aspetto, perché arrivano ritenute di acconto a IOSA e io non so come andarne fuori. Vabbè, d'altronde, che cosa la mettono sotto pressione? Dovranno anche aiutarla a cercare una soluzione, sì, più che agitarla, direi, se sono dei professionisti. A quanto pare, beh, da quello che sto sentendo, tante soluzioni, voglio dire, il contratto progetto ha messo ulteriori paletti. Noi lo applichiamo per quelle persone che collaborano, diciamo, in esclusiva per noi, con contratti che partono a settembre e finiscono a giugno, abbiamo i progetti allegati ovviamente, e la limitazione ed è effettivamente un contratto che si può applicare dal mio punto di vista, perché loro, se vogliono, possono dire di no nel momento in cui sono chiamati a fare qualche lezione in un orario che non è a loro compatibile. E il problema sono più che altro gli occasionali. Perché sono volatili, cioè nel senso che li hai per magari 2 mesi, dopodiché prendono un contratto da un'altra parte e dopodiché non li hai più e devi continuamente andare alla ricerca di personale. Paola, faccio subito commentare la sua situazione, perché il tempo corre, devo concludere anche con Zunino, l'avvocato Falasca, al quale do un altro campo da studiare approfonditamente. Si era già messo alla prova con le scuole di lingua, avvocato Falasca? Sì. Io ho seguito anche importanti istituzioni molto famose, anche istituzioni liriche e quant'altro, in cui hanno diverse scuole di musica, quindi è una situazione assolutamente tipica. Allora, partiamo da un principio: io ho criticato la legge Fornero, troppo rigida, quello che vi pare, però dobbiamo essere onesti con noi stessi. Gran parte dell'utilizzo del lavoro a progetto è un utilizzo non preciso. Se noi non portiamo da questo assunto e ci autoconsoliamo dicendo no, poi siamo, io sono d'accordo che la legge italiana è troppo rigida, il lavoro subordinato, però allora dobbiamo dircele le cose. Se una persona lavora stabilmente per un'organizzazione e ha delle direttive, è un lavoratore subordinato, ma guardate che il direttore del TG1 è un lavoratore subordinato, il centravanti della Roma è un lavoratore subordinato, non è che se può scegliere come svolgere l'attività allora è autonomo, decide se può telefonare lui allora è autonomo, non è mica questo. Allora, partendo da quello, io ritorno sul tema della puntata. Situazioni come queste vanno gestite con intelligenza. Il lavoro subordinato standard è troppo oneroso. Cuciamo addosso all'azienda, perché il contratto di prossimità si fa a livello aziendale o territoriale, cuciamo addosso all'azienda delle regole per cui i promoter a 10 euro al giorno non esistono più. Mi è piaciuto il messaggio, o meglio, probabilmente quel promoter che vende il canale satellitare applicava contratti pre-accordo di prossimità. Con l'accordo di prossimità sono vietati quei tipi di contratti. Quindi c'è una crescita di tutela, sì. C'è l'approdo al lavoro standard? No, però si fa un passo nella direzione. Le chiedo sintesi, avvocato, perché 2 minuti a Zunino almeno devo darglieli prima dei saluti, sì. E quindi, per rispondere alla nostra ascoltatrice che chiedeva come disciplini questo mare magnum di professionalità di cui mi avvalgo. Esatto, io andrei in associazioni industriali del territorio, oppure chiamerei sindacati e CLA e farei un accordo in cui si prevede un lavoro intermittente con dei costi compatibili con l'azienda. Il lavoro intermittente è un lavoro subordinato iperflessibile. La flessibilità esiste, dobbiamo conoscerla e usarla, e sui consulenti faccia un ragionamento se sono quelli giusti, perché insomma consulenti che mettono solo pressione, è molto facile per noi professionisti dire sempre di non mettere pressione, infatti, però essere anche scaricare il problema sul cliente. Costruttivi e non distruttivi. Dottor Zunino, mi rendo conto che le ho lasciato proprio una piccola parte della trasmissione, però ecco, quali opportunità il decreto sviluppo vi ha aperto, e soprattutto nei vari settori come vi state comportando con i lavoratori in relazione anche alle nuove novità appunto normative? Certo, cerco di essere rapido. Grazie mille. Punto fondamentale. Allora, il decreto sviluppo ha riconosciuto nell'articolo 24 bis che le attività di teleselling, quindi di vendita telefonica, sono in qualche maniera le ha equiparate agli agenti di commercio, sono effettivamente attività di lavoro autonomo, in quanto tale è possibile utilizzare lavoro, contratto a progetto, contratti di collaborazione, prevedendo però all'interno di questo articolo che il corrispettivo venga definito attraverso una trattativa nazionale con i sindacati di riferimento. Ora, noi come associazione applichiamo il contratto delle telecomunicazioni, quindi le nostre aziende associate, in linea di massima, devo dire in linea di massima perché qualche eccezione è necessaria, applicano il contratto delle telecomunicazioni. Stiamo lavorando con i sindacati delle telecomunicazioni per definire non soltanto il corrispettivo, ma anche un quadro contrattuale di riferimento applicabile per tutti i lavoratori dei call center in outsourcing, qualunque sia il settore in cui operano, quindi telecomunicazioni, finanza, assicurazioni, pubblico, cioè tutti faranno riferimento al contratto delle telecomunicazioni e a questa parte allegata del contratto, diciamo di una parte normativa di contratto a progetto che includerà anche la definizione del corrispettivo. Stiamo lavorando su questo tema che sembra semplice, in realtà ha una serie di elementi che richiedono molta attenzione, però siamo fortemente convinti che un contratto nazionale sia una soluzione assolutamente auspicabile di trasparenza, di chiarezza per tutto il mondo, ma anche di uguaglianza di trattamento su tutto il territorio nazionale. Quando sento parlare di contratti di secondo livello, di contratti di prossimità, di territoriali, per l'amor di Dio, in tante altre aree sono utili, magari vanno bene, utili, certo, però. Ma nella fattispecie, se dovessimo utilizzare o aprire contratti di prossimità su quest'area, riapriremo un'area di incertezza che invece ne sto cercando insieme con i sindacati di PCI. Grazie, dottor Zonini. Abbiamo capito, ci ritorneremo su questi temi, io lo prometto sempre. Grazie di nuovo ad Alessandro Lottaporta, Giampiero Falasca, dottor Zonino dei Contact Center. Noi torniamo domani. A tutti, buona giornata. Salva Danaio.